dice qualcuno: hola, hola, hola, hola, hola, hola. Chi è avanti? Chi è, chi è, chi è? Lu, aiù, entra giù, entra. Fate, boh, guarda che scemi. Ah, prima non ero io però, non so chi era, mi sembrava Antonio addirittura. No, prima era lontana la voce, non lo so chi fosse. Ma te ti riconosco perché il tasto dell'MC60 è inconfondibile. Adesso metto il microfono normale, ecco. E così impari che fa schiaccare. Io devi subito. Il mio, è il mio. Lì c'è il Kevuto con le... Io c'ho il Kevuto con le bimbi un toro. Adesso la prossima settimana prendo lo apro e ci metto il toro bimbi quattro toni. Siamo con 25 euro quello che c'ho io. E io che non è fasciallo. Sì, non avevo trovato il 680, faccio questo, già lo so come mi collegarlo. Il problema è che quando vai a venderlo, secondo chi è, diventa scemo. Perché il tecnico non ce la fa manco a smontarlo. Perché non sa come fare. Non c'è scheda, non c'è niente. Kappa kappa. E quello che c'avevi nell'altro apparato e no il bip. Sì, quello... No, quello lì, ne avevo un altro, ne avevo comprato due. Anzi, veramente ne ho tre, ma comunque... Per la B4 ne ho tre, sono delle... Non li vendono più della Intec. Certo, mi vendono 25 euro, però conosciamo di Facebook. Ho visto stamattina. Ma eccolo che fa pidu. Bello era quello che ho comprato della Lem. Io ho inserito quello della Lem e non quello della Intec nel Kenwood. Quello era bellino quello GB, ma con la Lem lo fa più. Sì, magari qualcuno c'è con la mano, mica c'è anche Luca, vai. Ehi, avanti Luca. Impegnato. Stai fuggendo poco. Cazzo, Luca. Quando mai, cazzo, non entrati con me, a voi la metà che lo venisci. Già lo so io perché se sta andando, ho capito, perché un cane è morto, ecco perché. Sta sempre facendo affari, adesso Luca, è un affarista. Ma sono d'accordo, lungo di canna e corto di vista. E beh, Simo, come sta? Non sta bene, no. Non sta bene. Adesso domattina deve fare i prelievi e vediamo un po' cosa mi dice il medico di base. Se ci vuole un antibiotico o cosa, perché sto consumando, ho speso 70 euro solo in medicina l'altro giorno. Figurati, tra concini, quelle... hai capito? Poi ci voglio le vitamine, non bastano quelle, anche non è sceso l'accidente, non è sceso. Ma tu sei stato io, mi compravo un baracchino. E vabbè, cosa c'entra? Prima la salute, cosa c'entra un baracchino? Ne puoi fare diverse di cose, ma è prima la salute, la priorità a tutto. Sì, sono d'accordo anche con te, allora 70 euro di medicine, poi ho fatto la spesa, perché non sapevo, vediamo come sono uscito con Giovanna, sono andato a comprare la roba che in pratica potrebbe mangiare, capito, quando sabato. Quindi a un certo punto ho speso più di 50, mi sono dati 20 euro, mi sono rimasti da... hai capito? Avevo 27. Cosa vuoi fare? Purtroppo questi imprevisti della vita ci sono, lo devi fare lì. Casino, un casino. Ma se la voce l'ho ricoverata, non ti avrebbero mai incrociato a te a spendere tutti questi soldi medicinali? Ah, bello, allora, gli hanno fatto gli esami, eccetera, eccetera, però non mi hanno messo gli esami del sangue, e quindi devo fare adesso l'esame del sangue nuovo, dove la fine avere l'infermiere, che è un amico mio, che lavora lì alla Stecca Bianca, viene alle 7 del mattino, gli fa i prelievi, poi gli fa gli alla Stecca Bianca, poi vado io a ritirare i referti in farmacia direttamente, hai capito? Ho capito. Ma quella pagamento. Per forza, già, cosa vuoi fare? Mica lo posso capire gratis. Devo pagarlo per forza. Per quello che. Come si chiama? Quello che cambia il cappetto da Giampiero, capito? Mi vola lì alla cosa, alla secca bianca e mi fa quel favore. L'ho capito. Pensavo che te lo mandasse la SL, capito? Visto considerato che lei non si può muovere, pensavo che te la mandassero loro. Ti aspetti qui, lì, capo a cavallo delle baccresce, già lo voleva vedere lo psichiatra, non c'è mai venuto. Quindi a me della SL se la può pigliare pure in culo, a me mi interessa solamente fare questi esami, una volta fatta questi esami che lei si riprende bene, mando tutta la documentazione lì a Rizzidu e se la prendono in culo loro e macchine che c'hanno in testa per la pensione. Io i documenti miei li ho già mandati. Ma esenzione non è alle medicinali? Sì, lei c'ha C03 c'ha come esenzione, però li ho pagati tutti, 70 euro li ho pagato me. E non è questione di esenzione, no, con questa migliorata originale, hai capito cos'è il discorso? Poco da fare l'esenzione c'ha. La farmacia me l'ha dati originali, mi ha dati. È meglio che ci siano gli originali prima, no? Ma la farmacia te li dà come li vuoi tu, se tu richiedi gli altri, ti dà gli altri, non ti dà quello originale. Anche io per il diabete ho la metformina che la posso pagare, posso devo dare un tanto perché non la passa, è una marca, è un'altra marca, invece te la passano gratuita. Vabbè, adesso mi metto già male in pratica di conservarmi tutti gli scontrini di Simona in modo da farmi il 7.30 e così mi ritornavo i soldi indietro. E cosa vuoi che ti donano? Io ho speso i medicinali 1.300 euro quest'anno, sai quanto mi hanno dato? 120 euro. Sì, certo, ma allora è peggio di biare in culo, non farlo nemmeno a parte. I soldi li devi spendere per 7.30 per andare dal CAF, perdere tempo, eccetera, eccetera. Che ha pagato. Il problema è quello, capito? Adesso vediamo un po', non lo so, magari saprò se ci vuole un antibiotico, se ci vuole un antibiotico si prende quello e gli passa tutto, almeno ingrassa, perché sembra, cosa ti posso dire, una che l'abbiamo liberata dai tedeschi, da Auschwitz, uguale, cioè presente una persona del genere, precisa identica. Pelle ossa. Pelle ossa, brava, sì, pelle ossa, purtroppo è così. Pelle ossa, è un tempo di un mese, non di più. Se si fosse accorta di qualcosa lì sarei partito subito a farla controllare. Invece dice, allora se si pigliava la tua germina passava subito, magari stava 4 giorni che non andava in bagno, eccetera, eccetera, si metteva la glicerina per fare il coso. Dopodiché tutto un tratto, hai cominciato a diarrea tutti i giorni, mangiava diarrea, mangiava diarrea, e quindi quando prende liquidi e roba del genere è una cosa allucinante. Se vuoi fare dieta, l'unica cosa è quella, pigliate una tassa interite, in tempo di 10-15 giorni scende di 30 kg. Sarà disidratata di brutto, se era così la disinteria sarà disidratata, bisogna fare bene molta acqua, dovrebbero farne anche della soluzione fisiologica per idratarla un po' all'ospedale, ma siccome ce ne frega. C'erano i medici, mi ha detto, uno mi diceva la flocca addirittura. Ma tu non le hai chiesto di ricoverare? Se non c'è posto di niente, ci sono pure azzuffati. Lui, lascia perdere, ma poi la Simona dice, sono andato lì, mi ha detto, meno male che io sono entrata quasi subito, ma dice c'era gente che era 48 ore di buttata. Sono arrivati alle mani me con i medici, sono arrivati. C'è gente che è rimasta 2 giorni lì buttata. Perché poi uno perde la pazienza, si nervosisce, c'è cioè quello che è più irascibile e non vi rabbatte i rifugi, c'è cioè quello che si regola, che ha pazienza. irraggiungibile, che c'è conto con me fare in buona mano in naso. Ma i medici cosa c'entrano? Sono pochi loro, cosa fanno i medici? Se sono pochi, non assumono altri? Dove c'è? I medici quasi 70-80 pazienti, figurati tu. Tutti alla... tipo come fanno con i maiali, tutti messi così, cazzo. E poi i medici quando vedono queste situazioni lo fanno anche apposta per far vedere che capito. Per far capire che c'è bisogno di altro personale, quindi lo fanno apposta a rallentare tutti i movimenti. Secondo me è così. Niente, questa... Oggi, in cosa, l'altro giorno mi stavo dicendo che è arrivata la Shine, non so se è ieri o oggi, a Sassari qui, mi ha visto tutto, in che condizioni è l'ospedale di Sassari, eccetera, eccetera, e tutto quello che c'è da fare. Ma io non mi sarei fermato, ma sarei andato a Policlinico, da qualche altra parte a farla controllare, perché non è possibile che lei resti così senza che la controlli, che la tenga in osservazione. Quelle condizioni devono dare le terapie e tutto quanto, capito? Sicuramente devono fare di flebo perché è disidratata, se è pelosa come stai dicendo è disidratata. È disidratata, vabbè. Tu c'è dove si vede. Io non ho mai visto una cosa del genere, nella scatola ci puoi infilare tranquillamente il dito fino, e arriva fino ad attapparmi. O dietro la schiena che si vede tutta la colonna vertebrale e poi le costole, a questo livello è me. Lo so perché mio socio era così lo stesso quando... Vabbè, poi se n'è andato perché poi l'aveva scoperto che aveva un tumore. Era così, capito? Lo stesso. Era pelle ossa, non voleva mangiare, gli compravamo gli yogurt e cose per mangiare quello, almeno lo gustavo e pure, ma no, non ne voglio altro. Perché no, a un certo punto ti si chiude lo stomaco, non vuoi bere più acqua, non vuoi fare più un cazzo, capito? Puoi più mangiare, eccetera, eccetera. Oggi meno male ha mangiato, è andato una germina, poi si è mangiato un pacco di pasta, bagnato, di quella senza crema. Perché ieri ha fatto comprare Mirko, il figlio di Giovanna, e ci siamo parlato di tramezzini, eccetera, eccetera, quindi io ho controllato in pratica. Per mangiare pane bianco, da pane ficcio, mi viene comprato il pane bianco, quello crudo, cazzo, io non ce la faccio a mangiare quel pane lì, la verità, ci vuole così, ma quanto sembra ci vuole quel pane, poi il succo di frutta, un po' di acqua. Se riesci a farli mangiare omogenizzati, dagli anche gli omogenizzati alla casa. No, non ho fatto il pollo, gli ho comprato il pollo che ho fatto, ho comprato il pollo alla la Kobe che gli ho comprato l'altra sera a me. E ho girato tutto il setto dell'altro, gli ho tagliato a pezzettini fini, l'ho tagliato e se l'ha mangiato tutto. Vabbè, se mangia così va bene, ma se non mangia... anche gli omogenizzati da tirano su, capito? Lo so, c'era la fame, mi ha detto, quindi si è mangiato tutto il pollo, adesso mi dopo gli faccio mangiare due hamburger e patate d'estate. Falla bene di brutto. Deve bere almeno 2-3 litri d'acqua al giorno. Sì, ce la faccio bene, la voglia. Spero che si rimetta presto, adesso domani, una volta che ho i dati dell'analisi del sangue, saprò se cosa ci vuole, cosa non ci vuole, vado e glielo prendo, non me ne frega niente, almeno si rimette, in tempo di un mese si rimette come prima. Ma infatti bisogna tirare un po' su, su vitamine e questa roba qua devi dare. Perché se no così, se se continua a dimagrire guarda. Tutto per quello poi, quindi, cioè, quel tipo di cosa ti rende, cioè, stanco, mi capito? Debole, non fossi stanco, ti butta giù, è come se te ne dovessi andare in teoria. Io quando ho visto mamma, l'ultimo mese che me l'ha portata Giovanna a casa, l'ha portata a braccetto, l'ha portata, era talmente magra che pesava se no 15 kg in me. È venuto il medico, gli ha fatto una riniezione di morfina. Avesse impatti, dopo 3-4 ore se n'è andata. L'ho salutata, l'ho abbracciata, ho visto che gli succedono le lacrime, hai capito? Sono rimasto così scioccato, hai capito? Oh, yeah. Come finiamo? È giovane, quanti anni c'ha Simona? 59 anni ha Simona. Figura. Non è manco la donna vecchia. No, oh, assolutamente. Se è stato un pochettino più grasso sarebbe stato totalmente diverso, se la vedi grasso potrei essere magra, la vedrai, ma cambia. Poi adesso devo fare la domanda che per mettersi i denti, così almeno è a posto. Quando mastica almeno digerisce e sta meglio, capito? Beh, già pieno, anche senza denti, come visto che mangia bene, vale un coso, un cinghiale. Ma dipende sempre dall'osso che c'hanno, capito? No, ma ci va a cambiare con i denti, non senza. Senza denti è un casino. Non digerisci bene perché mastichi male, quindi è tutto... Nella danno dalla casa mutua. Che cosa è la casa mutua? Il mangiare. No, la dentiera. Devo fare una domanda, ma mi ha mandato il sito Giovanna. Ed è in via di frutti giardinetti, in pratica, quanto ho visto io. Dove c'è l'otturino l'hai ingoiato? Ah, più giù, dove c'è l'otturino di scatto, le sigarette. Che paga. Vabbè, dai, che sistema almeno. E le patate? Le patate te le smuccio, sono già poco. Vabbè, dai, che preparo la cena, Simona, ci sentiamo dopo, dai, già, ok? Ciao Antone, ciao, buona carica, ciao Simone. Ciao Simone, mangia tranquilla e bevi molta acqua. Ci sentiamo, buona serata, avanti chi è rimasto su 10.